Partiamo dal titolo. Ok, La signora del blues, vita di Billie Holiday, una cantante, ma soprattutto una donna, discriminata per tutta la vita, vittima di violenza, di razzismo e di discriminazione, insomma, in quanto non era del tutto nera e del tutto bianca. E quindi per la società americana nel periodo del proibizionismo, ma anche prima, naturalmente stiamo parlando del 1925-37, insomma, morì a 44 anni nel 1959, quindi raccontiamo un po' l'America del tempo, anche con l'aiuto delle videoproiezioni del tempo, con la musica che si ascolta di quel periodo, tutta musica jazz bellissima, insomma, questo. Sì. Da dove prende spunto tutto? Il mio desiderio di raccontare sempre le donne o comunque aspetti in cui la catarsi attraverso la dimensione artistica, che può essere la recitazione, come la pittura, insomma, o il canto, come nel caso di Billy, in qualche maniera è una catarsi, insomma, una trasformazione. E ho fatto anche Edith Piaf anni fa, e anche questo, insomma, era sempre questa mia ricerca di ritrovarmi in qualcosa che poi in un personaggio che poi si trasforma attraverso la dimensione artistica. Daniela, cosa ti ha impressionato di più dell'umanità e del canto di Billie Holiday? Bella domanda. Il canto di Billie Holiday è qualcosa di particolare, è graffiante, è un po', è unico, insomma, non c'è nessuno che canta come Billie, nessuno ci sarà mai che canta come Billie. E alcune cantanti di oggi hanno ripreso questo modo di cantare, ma questo suo modo di cantare nasceva da un malessere profondo, ecco, poi mischiato al desiderio di, appunto, di esprimersi attraverso il canto. Era una forma talmente naturale per lei che non c'era, infatti non conosceva la musica, insomma, non è che leggesse lo spartito, ecco, così era quasi tutta un'improvvisazione, sembrava più che altro uno strumento a fiato, ecco, uno strumento a fiato. E mi ha impressionato questo suo vincere e oltrepassare in qualche maniera le barriere razziali semplicemente con una canzone che era Strange Fruit, scritta da lei, che parla appunto di questi frutti appesi agli alberi di pioppo e che sono in realtà i cadaveri delle persone di colore che venivano appunto uccise per discriminazione. Insomma, una storia particolare. Oh, Daniela, è uno spettacolo che stai portando in giro già da un po'. Che riscontri hai avuto? Belli, nel senso che questa edizione, lo spettacolo è diverso, l'ho modificato nel tempo, per intero tutta la gamma, diciamo, delle ottave, quindi sono molto felice e entusiasta di rifarlo. Abbiamo un po' svecchiato, gli abbiamo dato una dimensione contemporanea, perché è così, questa donna la metto in scena perché se non c'è niente che colpisce, diciamo, con un aspetto del quotidiano, di oggi, è inutile, insomma, per me poter rappresentare qualcosa, insomma. E beh, la gente rimane molto colpita, molto molto colpita, perché tutti ricordano Billie, tutti ricordano le canzoni, tutti ricordano la voce, ma pochi sanno una storia che, tra l'altro, è una storia anche mista a leggende, per cui ci sono un'infinità di aneddoti su di lei, un'infinità di cose più o meno autobiografiche, tante cose di nuovo. Daniela, in chiusura, ci lasci i riferimenti internet per lo spettacolo e per il tuo lavoro in generale? Sì, beh, mi trovate come molte persone on Facebook, e anche su YouTube potete ascoltare qualcosa dello show digitando semplicemente Daniela Barra, oppure Compagnia dei Masnadieri, oppure Spazio 18B, www.spazio18b.com. Noi siamo a Garbatella, in questo bellissimo spazio della Compagnia dei Masnadieri, in via Rosmaino, parte 18B, a 2 passi dal Palazzo della Regione Lazio, e vi aspettiamo. È un'esperienza. Questo spazio è aperto da neanche un anno, ed è già molto, molto, molto vivo di energie, di belle cose, di bella creatività, insomma, dalla stagione teatrale, anche uno spazio dove poter stare insieme, e fare arte, ecco, diciamo, fare arte, sviluppare amicizia, bellezza, fare arte. E questa, veniteci a trovare. Benissimo. Allora, un abbraccio e ci si vede a teatro, Daniela. Ciao, Grazie, un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Ciao! a presto.